13:28 anche per quest'oggi, mercoledì 16 marzo, periferico se ne viene onda dai 94.7-96.250 di Città del Capo, la Radio Metropolitana. Ciao Elia, doppia voce quest'oggi, Elia e Michele a tenervi compagnia fino alle 13.55 circa. E abbiamo recuperato anche alcuni classici di rock italiano, oggi te lo dico, te l'annuncio subito perché così a sorpresa. C'è da parlare, alcune cose che capitano in città. Oggi iniziamo un po' tardi, Elia mugugna, ma perché è un ragazzo un po' fighetto sotto sotto nel suo percorso di vita. Ma hai colpito al cuore, bastardo. Guarda caro, iniziamo subito, ti lascio con un brano di R&B un po' studiato da parte di Mike Ladd, produttore newyorkese. Questa è la traccia numero 8 da un suo vecchio lavoro, Beauty Party, come Majestic. Questo appunto è Helicopter Party, ce l'ascoltiamo, dopo ci diamo le coccole. The manifestations of all my pockets' fantasies. Pretty, ain't it? The copter got you dizzy, going round and round as we fly over my capital ground. I say I own this city, and you ask me why. Ghetto music keeps me high and paid. You can't begin my pockets for magic and my secrets. Money over money don't just disappear here. The older I get, the less I want to say. And I see you at the end of the day, okay? 'Cause we be riding. To make a motherfucking hit, about to show an hour later what a blow pop is. MCs be spitting out the too many verses and bullshit hooks, but you can't hook a nigga shook that wanna look. And I don't understand your plans and mastering this right here. Control of the music is control of the world. Well baby, now you wanna fly this kite, right? Get in my helicopter. Everything we over is under my reside. Your eyes start to puzzle wide and start the night. Well then, let's head for space, as the earth starts to look like the shape of my pockets. Go take a peek in the rubber compartment of my rocket. Now don't freak out what you're singing there, baby, but save me. Do you understand my plans and mastering this right here? Control over music is control over world. Well baby, I thought you ain't wanna fly this kite though. Well then, get in my helicopter. We be riding like money is gone. You say you paid and I feel you. Got to be paid and I feel you. Helicopter Party, questo è il nome del brano, a firma Majesticons, che è, ti spiego, praticamente è un progetto di teste pensanti newyorkesi sparse, tra cui Mike Ladd, che è uno che già ha lavorato col tuo amico Matthew Sheep, che si mettevano un po' a capire come rifare l'R&B, quello più leccato e di parata. È un bel lavoro, si chiama Beauty Party. Sembra ci riuscissero bene. Abbastanza, sguaiati e modaioli all'occorrenza, no? Un bel lavoro. Allora sullo sguaiato ti seguo, perché mettiamo una vecchia hit del il massimo degli sguaiati rifatta, da chi ve lo dico dopo. Tutto dopo. Yeah. Mama, don't let your babies grow up to be Tolstoys. Toying with the telltale and totaling Toyotas. Mama, don't let them grow up to be Tolstoys. Molto bene, avete forse riconosciuto Howie Gelb, erano forse. I Giants, forse. Ma non solo, no? No, c'era Howie... anche una danese della sua nuova formazione, il nome che e questi nuovi Giant Sand, che mettevano mano a un, così, un classico minore di una formazione ska inglese di cui non ricordo il nome. Manco io. Così, altre versioni dei Sex Pistols si sprecano in questi anni. Mio caro, passiamo adesso invece ad ascoltare molto molto velocemente. Tanto la giornata è caldissima, ho già sudato tutte le energie e i pensieri che avevo fatto questa mattina. Non ho nulla, la sudata di stamattina mi ha completamente annichilito. Troppo caldo fuori, il disco adatto in questi giorni è sicuramente I Love You di Benny Sings. Questo bel live per questo cantantino in tweed dall'Olanda. Questa che ci ascoltiamo oggi, traccia numero 9 da questo suo lavoro Personal Collective, si chiama Me and My Guitar, lui è Benny Sings. Inside my book, and I'll try to reflect upon what was I run from and what thieves stole my song. Been trying to run away from me and my guitar, but every time I try to run, someone came and stole the sun. So I will stop trying to run away. Now I'll try to look within to see what good the day will bring to me. Il tocco malinconico di Benny Sings, Me and My Guitar. Questa Elia veniva da questo suo bel live, un disco tra l'altro come non si fa da tempo, sei commosso? Oh, sospirone. Sospirone su questa chiusura tutta pizzicata e voce che dava parecchio. Un bel live, questo suo lavoro, I Love You, tutto dal vivo. Buona la prima, come si diceva una volta. Buonissimo. Col pubblico a fare i coretti e il battimani. Dovreste vedere il vestitino che porta questo uomo. Sì, è un bel ragazzo, in carne, bei ricciolini rossi, e insomma, Benny Sings www.mastodon.com come un clown lisergico. Assolutamente, il ragazzo è al secondo lavoro. Se volete un po' di informazioni su di lui, abbiamo un link nella pagina di Periferico all'interno del sito della radio, così vi documentate un po' su questo lavoro che è in questi giorni in cuffia. Io sottolineo molto l'ascolto in cuffia, lo sai, sono un po' impatito, ma in cuffia scorrazzando per il centro, magari anche no, da Stalingrado ai Colli, funziona molto per sonorizzarti. A Venezia sono i maestri, anche perché non hai altre scelte. E insomma, un bel lavoro per consolarsi in questi giorni. Sai che sono gli ultimi giorni in cui potrai sbevazzare fino alle 21 in giro, poi non potrai più farlo? Sacchetti di carte come in America. Eh sì, sembreremo tanti piccoli barboni più in là. È allora una cosa che ci dà un po' di tristezza. Cake non so nemmeno poi se sono americani o inglesi. I cake sono americani, Eli. Sono americani. Allora andiamo in America con loro. Immagina il cartone accanto alla bottiglia, comunque tristissima. Cosa ascoltiamo dei cake? Ultimo disco dei cake, si chiama Pressure Chief, Palm of Your Hand. Aranda. Questi. Il tempo stringe. No, questi erano i cake, mio caro. Ah già, questi erano i cake. Eri un po' smarrito nell'ascolto, eh? Ho notato. Sì, ero così. Lasciavo il silenzio vagare. Bel dischino, ve lo consiglio, Pressure Chief. Dischi di una volta, dura nemmeno 40 minuti. Sembra che ti prendano per il culo e lo fanno veramente bene. Sta in due facciate di vinile, insomma ci sta, esatto. Un gran lavoro. Dischi di una volta come quello che abbiamo sotto mano lì, perché è un lavoro italianissimo del 69, perché dobbiamo presentare. Ma in realtà non volevamo presentarlo, volevamo farlo ascoltare comunque. Poi facendo quattro chiacchiere con quel creatura onnisciente che è Piero Santi, abbiamo scoperto che due di loro passano questa sera a Bologna. Stiamo parlando di due ex Stormy Six, ovvero Franco Fabbri e Luigi Fiore. Fiori, che sono questa sera al Teatro San Leonardo dalle 5, a margine di una serata su Bob Dylan, su musica e testi di Bob Dylan. Faranno un piccolo live, una performance di penso una mezz'ora, poco più, e così li ricordiamo. Insomma, ci è capitato questo disco sotto mano degli Stormy Six del 69, una storica formazione beat, diciamo così, italiana. Si chiamava L'idea di oggi per la musica di domani, un gran titolo. Questa degli Stormy Six è la traccia numero 3, La storia più bella del mondo. Farei molto contenta mia mamma con questo disco, eh? Cioè, come si chiama? La più bella del mondo, di un uomo e una donna insieme. Sento rinascere la vita, rimasta per anni stupita. Ti prendo per mano e sospinti dal vento, si sento portare lontano. Bruciati di sole, bagnati di mare, impara dal mondo a scordare. Se questa è la storia più bella del mondo, narriamola dunque ai bambini, che sappiano dire anch'io voglio amare, annullarmi felice nel tempo, che possano sapere che nel mondo l'amore è ciò che di bello rimane, che possano dire non conto soffrire. Ma il vento si posa e il sole tramonta, rimangono un uomo e una donna, insieme venivano correndo felici, ma tornano per strade diverse, le dita dischiuse ora lasciano cadere l'amor che serravano con forza. E questa è la storia più vera del mondo, guardiamola dunque ai bambini, possano sapere che nel mondo l'amore è ciò che di bello rimane, che sappiano dire anch'io voglio amare, annullarmi felice nel tempo, che possano dire non conta soffrire se prima si è arrivati al sole. E questa è la storia più bella del mondo, narriamola dunque ai bambini. La storia più bella del mondo. La storia più bella del mondo, appunto, Stormy Six, formazione in cui militavano appunto Umberto Fiori, non Luigi, come erroneamente indicavo prima, e Franco Fabri, assieme tra l'altro a un grande come Claudio Rocchi, che in casa mia da bimbo andava per la maggiore, per cui è stato un bel ritorno. Sì, sì, assolutamente. Con tuo papà. Beh, quanto meno i dischi popolavano il mio salotto. Questo era un lavoro che usciva nel 1969, un paio d'anni dopo il loro debutto e prime cose come un tour assieme ai Rolling Stones. Loro saranno Fiori e Fabri questo pomeriggio dalle 5 al Teatro San Leonardo, assieme ad altri conoscitori dell'opera, del discorso musicale di Dylan, faranno anche un live a chiusura di questo appuntamento. Ci siamo ascoltati La musica più bella del mondo degli Stormy Six, il disco era L'idea di oggi per la musica di domani. Gran titolo, grandissimo titolo. Un'altra storia, un altro pezzo della storia più bella del mondo, chissà quale, poi domani da un milione. Assolutamente. Quella da scrivere. Andiamo ai cugini inglesi dei Cakes, che si chiamano Gomez. Ah, c'è tutto un affare in famiglia. Tutto un affare di famiglia, infatti. Da questo loro disco Abandoned Shopping Trolley Hotline, la linea per recuperare i carrelli della spesa smarriti. Divertiamo sempre molto a tradurre i titoli quando sono lunghi e incomprensibili. Sì, e incomprensibili soprattutto. Ascoltiamo questa qui che si chiama 78 Stone Shuffle. E lanciate i fiori dalle finestre. Esatto, fate l'amore. Ciao Giulia. lasciamo sparire nell'etere Gomez con li salutiamo, un arrivederci comunque. Il disco appunto era Linee Calde per Carrelli della Spesa Abbandonati, la traccia la numero 6, 78 Stone, qualche cosa altro. Non so se è l'indirizzo che diavolo voglia dire, ma non importa. Non importa per nulla, noi vi lasciamo con i programmi di Città del Capo che prevedono la presenza di Broadcast Club, settimanale che si occupa di nuove tecnologie e comunicazione in genere. Vi ricordiamo domani l'appuntamento col documentario sul Living Theater, se ne avete ancora voglia. Non so voi, io sono un po' dubbioso. Ma il titolo mi invita a resistere di questi tempi, ce ne sono tanti. Sicuramente abbiamo bisogno di resistere. Quindi domani questo appuntamento qui dalle 5.30 noi vi lasciamo con un brano di Little Vega che dà una mano alla buona Ursula Rucker con questa release. Noi ci vediamo magari questa sera che è 74, se venire anche tu a fare 4 gag con i Kissogram, oppure mercoledì prossimo, questi giorni. Mercoledì prossimo senz'altro. Mi raccomando, correte in bicicletta finché potete, lanciate fuori dalle finestre, come dice di solito Elia. E fate l'amore. Assolutamente, questa è Ursula Rucker, la sua release, fate una buona giornata. Ciao a tutti. Bacio come piovesse, ciao. Skies were quiet and clear and quiet and blue that day when everything changed, what changed to really change. Release your heart, my heart. Release. Release your heart. Of my life. Do I choose plata or plomo? Silver or lead? Silver or lead when boys be dying on blocks every day and the TV and the paper don't never say nothing about them when tattered yellowed paper flags be taped to forgotten project windows when billowing waving flags be perched on car tops of bigots and crooked politicians. Has anything changed? What changed? Who really changed when towers be falling and Babylon be calling your name? My name. When towers be falling and Babylon be calling your name? My name. How will we answer? How will we answer with dread, with faith, with misplaced power or power of prayer, with bigotry, with humanity, with love? With love.